ci ricollega alla grande tradizione del jazz e che ci propone poi l'entrata in un nuovo discorso che seguirà per i brani successivi, è Mood Indigo di Duke Ellington, ma nella versione di un grande del jazz di rottura, di battaglia, un uomo che è sempre stato nel jazz all'avanguardia, sempre contro il sistema, Charlie Mingus. Questa è la versione di Charlie Mingus per basso, per contrabbasso, e ve la ripropone Bruno Tommaso con me al pianoforte e Andrea Centazzo alle percussioni. Thank you. Grazie.